Grazie. via con la tua. È una città dell'antica città che aveva lasciato esistere presso il delta orientale del Gino. Era capitano del paese durante la nostra dinastia. Per la sua posizione al confine con l'Asia era il porto egizio più importante e costituiva un centro strategico militare. Quando era apparso il 190 Cristo, a causa dei trasportamenti della Magnago, oggi nata Mangala, Sani chiuderà la morte abbandonata. Nel 1876 l'Egitto non poteva essere successo, offrì un esploratore della madre del re d'Egitto, un scopritore di numerose monete del re Mangoco, di trovare il cibo che occupava Venus e un tizio nei primi mesi nella gerarchia di una forza, il decreto del campo, in cui spinto il vero punto si finesse la trasposizione in carattere grosso. Successive spedizioni archeologiche hanno riportato alla luce un importante retrocedere, a cui un tempo non era sospeso. Apra le zucche, che alte mi. Thank you.

Grazie. giurisprudenza da informare una persona per la Corte di Cassazione. Questa domanda viene a consigliere del Partito Pubblico ieri a Vicenza, annunciato naturalmente della sua nomina a posto del procuratore generale. Quanto prima annuncerò, sapete la vittoria nella guerra universale contro le energie da basso costo, la notizia di Mexico sarà l'altra, stati salvati dal sistema di Senato e fino a 23. Secondo il quotidiano Avoda, il presidente Erdogan ha pronunciato questa frase rivolgendosi al segretario generale del Partito Socialista Democratico, Alessandro Mahasarian, che era sempre in stava fine. Grazie alla scuola del suo potere e del suo esercito, la prima prossima a migliorare la storia del segretario universale. Ma sarò ufficialmente molto presto. Sa proprio che tuttavia il nostro canale ieri sera hanno presentato 19 parte del programma nel corso di una trasmissione televisiva alla quale ha preso parte questa voce stata per me che ha proteggiato il movimento del castello e alla potenza di Ansara e programma di televisione. Io sono la sua nella richiesta di sciogliere l'assemblea costituente e quello di cancellare il progetto della nuova casa. Ricordiamo che in effetti c'è stato rilasciato da parte di relazioni politiche che proponga una redazione della nuova costituzione che era potente di scioglimento, la fissazione della data delle elezioni politiche. Almeno la consultazione sarà molto leggera e questo è il bilancio dei fatti. Il fatto è che il ministro Scusa e il direttore ha presentato la morte di un giorno alla protezione e si sono andati da meno a questo infatti avvenuti a Milano e alla Sicilia e la capitale della Siena hanno tolto la vita a 10 persone ma di oltre 14 persone ferite di cattiva e di cattiva e di cattiva e di cattiva e di cattiva e di cattiva e di cattiva e Thank you. Mario Cairo vi presenta. Thank you. del vostro programma Una fonte di vita. Questa sera parleremo di importanza del Nilo per le tribù. Si tratta di una questione importante e sensibile per la sicurezza nazionale di Egitto. Sono presenti uno tra le priorità di tutti i suoi studi strategici, politici ed economici. Il Nilo è uno dei fattori che formano l'itinerario di Egitto, la sua sicurezza e la sua stabilità. Cari spettatori, le relazioni storiche tra i paesi rivieraschi del Nilo sono fondate su un obiettivo unico, una sola sorte e una via comune. Queste relazioni costituiscono realtà costanti radicate nel passato che devono essere confermate attualmente nell'avvenire. La storia dell'antico Egitto affonda storie controvertibili sulla profondità delle relazioni con i paesi del bacino del Nilo. Gli antichi egizi hanno proprio numerose iniziative per esplorare le fonti del Nilo, dirigendosi verso l'estremo sud, cosa che ha permesso lo sviluppo di relazioni e la crescita di scambi commerciali con i popoli del bacino del Nilo. Data l'XIX secolo, internazionali sono state concluse dai diversi paesi rivieraschi del Nilo, tra cui l'Egitto, e questo con l'obiettivo di trarre il massimo profitto delle acque del fiume e di regolare il loro sfruttamento per ognuna delle parti. Tra queste convenzioni ci siamo parlando di Roma che nel 1221 dalla Gran Bretagna, rappresentante dalla parte dell'Egitto e Sura, e l'Australia, rappresentante dell'Etiopia e del Nord. Thank you. Thank you.

esportizia e prima se non è più ora possibile di sottare per combattere le sabbie. Tuttavia, quando si disturba nell'elettronico, è possibile anche mettere in testa che un sacco insonevole, se è adottamento rispettato, porta l'organismo a rilassarsi e facilmente a ripiegare. Innanzitutto quello che svolge l'attività fisica. Il corpo si è scatenato, sarà naturalmente predisposto a difesa. E se fa bene, è necessario pensare di regolarizzare, ove possibile, il ritmo sonno-veglia. Il corpo umano, infatti, si adatta naturalmente a raddormirsi a determinati orari, se correttamente intenzionato. Per quanto riguarda l'alimentazione, invece, dimenticherà c'è una energia troppo pesante e quindi le ore precedenti al sonno non si sfumano né a polizia né a caffeina e derivati. Anche la parte principale del biglione è importante. Ammettere che si attendono la stanza dove dormite con una stessa temperatura le più spalmesse e soprattutto a certo punto. Siamo così presto a termine della nostra puntata odierna. Grazie a tutti, vi auguro buon pomeriggio. Ora vediamo il supportato potenziale. Vediamo ancora che è una scatola azzurra. Ora si chiama Hamad Aguano. Una persona con la sua Thank you.